Tutti coloro che pongono una fede salvifica in Cristo diventano figli di Dio e come tali fanno parte della Chiesa di Dio. La Chiesa di Dio è quell'organismo vivente che è nel mondo ma non appartiene al mondo. È un regno che si esprime tra i regni del mondo e che non può essere visto se non da coloro che sono nati di nuovo. La Chiesa di Dio ha principi, visioni e dottrine che non appartengono al presente secolo e comia tranne che per qualche fortuita e rara coincidenza, meno si tratta di principi, visioni e dottrine totalmente in antitesi ai pensieri degli uomini e dei governi umani. In definitiva, Chiesa di Dio e mondo sono in netto contrasto, non vi è comprensione, non vi è intesa. Perché allora Dio lascia su questa terra coloro che sono suoi figli sapendo che vi è questo netto contrasto tra mondo e Chiesa. Non sarebbe meglio che chi pone una fede salvifica in Cristo venisse subito rapito in cielo, anziché vivere in continua antitesi con gli altri in attesa del ritorno di Cristo? Sono domande serie e non retoriche. Perciò è opportuno esaminare alla luce della parola di Dio almeno 7 motivi per i quali Dio lascia la Chiesa su questa terra. Motivi che mettono in evidenza il compito assegnato alla Chiesa. 1. Matteo 28.1-9-20. Il compito della Chiesa è predicare la salvezza per mezzo della fede in Cristo. Gesù, il Figlio di Dio, non è venuto sulla terra solo per salvare tutti coloro che pongono fede in Lui, ma ha dato ai Suoi discepoli il compito di continuare la Sua opera nell'annunciare la salvezza a tutte le genti. Dopo essere morto per i peccati degli uomini e risorto per la loro giustificazione prima di salire in cielo, Gesù diede quest'ordine ai discepoli. Andate dunque, e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Amen. Dunque, una prima ragione per la quale Gesù lascia sulla terra i suoi discepoli è per annunziare il messaggio salvifico in Cristo a tutte le genti. Perciò per la Chiesa non vi può essere compito più urgente di quello di annunziare l'Evangelo. Questo aspetto potrebbe contrastare l'opinione secondo la quale il gesto più importante verso l'umanità sia quello di provvedere il sostentamento economico. Ma pur essendo questo un fattore importante, non lo è quanto il predicare a tutti l'indispensabile messaggio del Vangelo. 2. 1 Timoteo 3.1-4.15. Il compito della Chiesa è di essere una benedizione al mondo. I cristiani sono odiati ovunque, eppure, se vi sono delle persone utili alla società, sono proprio coloro che hanno posto fede in Cristo, perché con il loro comportamento giusto e altruista recano alla società un benessere morale e materiale. Prendiamo dalla Scrittura solo 2 brani nei quali viene dimostrato quanto sia utile il cristianesimo nella società. 1 Tessalonicesi 4.11. A cercare diligentemente di vivere in pace, di occuparvi delle vostre cose e di lavorare con le vostre mani, affinché vi comportiate onestamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nulla. In questo caso l'ordine di Dio è di essere degli onesti cittadini autosufficienti. Se tutti gli uomini fossero così, la società non sarebbe di gran lunga migliore? Efesini 4.28. Chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Non solo il credente deve essere autosufficiente e onesto, ma anche dedito al bene del prossimo. Perché allora la fede cristiana e i cristiani sono così osteggiati? Se il compito della Chiesa è quello di essere una benedizione per tutto il mondo, da dove deriva l'odio verso di essa? 3. Efesini 3.8-10. Il compito della Chiesa è far conoscere il pensiero di Dio. Si nasce ignoranti e per tutta la vita non si fa altro che imparare e conoscere la verità. Se questa verità è un assioma, lo è pure nel campo di Dio. Fin dalla nascita nessuno conosce il pensiero di Dio. Il grande mandato della Chiesa consiste nell'annunciare al mondo un messaggio che contenga la volontà di Dio. Nel testimoniare del suo incarico, l'Apostolo Paolo scrisse queste parole: «A me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare fra i gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti la partecipazione del mistero, che dalle più antiche età è stato nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo, affinché per mezzo della Chiesa, nel tempo presente sia manifestata ai principati e alle potestà, nei luoghi celesti, la multiforme sapienza di Dio». La sapienza di Dio è dunque manifestata tramite la Chiesa, e se la Chiesa non accetta l'autorità divina e ad essa non affida la guida dei suoi pensieri e del suo cammino, rimane uno strumento inefficace, il quale, come tutti gli strumenti inutili, verrà messo da parte. 4. Efesini 3. 20-21. Il compito della Chiesa è tributare gloria a Dio. Una divinità è tale solo quando viene onorata e glorificata. I cristiani che hanno posto fede nel Dio, trino tramite Cristo Gesù, non possono non tributare gloria a chi è il Creatore e Salvatore. Spesso i religiosi formalisti danno gloria alla loro divinità senza sapere cosa stanno dicendo, ma i figli di Dio hanno dei motivi molto precisi. Così si è espresso Paolo: «Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen». Dare gloria al Dio Trino non può che essere la prima reazione della Chiesa nei confronti dell'amore di Dio, riconoscerlo, capace di fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, spinge il credente ad adorarlo e, come atto di riconoscenza, a sradicare qualsiasi cosa che non piaccia a Cristo. La Chiesa dunque avrà l'obiettivo di non conformarsi all'andazzo di questo mondo, non cercherà di fondere tutte le religioni in un unico movimento religioso, ma con fedeltà e fermezza annunzierà che tutti gli uomini per nascita sono indistintamente sotto l'ira di Dio, tuttavia possono godere della salvezza unicamente per mezzo della grazia di Dio mediante un atto di fede personale in Cristo. E questo è il messaggio che tributa gloria al Dio Trino. 5. Efesini 2.2.022. Il compito della Chiesa è essere una dimora di Dio. In tutte le religioni, la divinità è talmente lontana dall'uomo mortale da non essere compresa o, al massimo delle ipotesi, da soltanto limitarsi a intervenire a suo favore o sfavore. La fede cristiana invece insegna che il Dio Trino viene ad abitare nell'essere umano per farlo partecipe della sua natura divina. Così ha espresso questo miracolo l'Apostolo Paolo nella lettera scritta agli abitanti di Efeso: «Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un tempio santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito». Quando una casa è la dimora di qualcuno, significa che la persona che vi abita può fare quello che vuole in essa. Un ospite può solo entrarvi temporaneamente, deve essere riguardoso e, dopo un po', deve uscirne. Ma chi vi dimora ha tutti i diritti su di essa. Così, mentre Dio non può agire liberamente nel mondo, la Chiesa è il luogo adatto dove egli può compiere la sua volontà. Se la Chiesa non fosse sulla terra, come potrebbe Dio mostrare la sua autorità e volontà? 6. Matteo 18.1-5-17. Il compito della Chiesa è esercitare la disciplina dei cristiani. Il fatto che tra i discepoli di Gesù vi fosse un traditore mette in evidenza che tra coloro che si professano credenti vi possano essere degli indisciplinati o addirittura degli increduli. Proprio perché è impossibile che la Chiesa sia composta di uomini perfetti, Gesù ha insegnato come si debbano comportare i suoi discepoli. Ora, se il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo. Fra te e lui solo, se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone, affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa, e se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. L'ordine di Gesù dovrebbe essere preso sul serio in tutti i particolari. In casi di offese fraterne, occorre prima di tutto cercare di risolvere la questione in privato, poi se non è sufficiente con dei testimoni, e infine se non si risolve il problema va affrontato con la Chiesa. Se non vi è riconciliazione, chi ha offeso deve essere ritenuto estraneo alla vita comunitaria, perché un compito della Chiesa è proprio quello di esercitare la disciplina fraterna. L'amore perfetto non solo unisce, ma a volte divide. 7. Efesini 4.11-13. Il compito della Chiesa è edificare i membri di Chiesa. Se il compito della Chiesa è di predicare la salvezza in Cristo, di essere una benedizione al mondo, di conoscere il pensiero di Dio e di dargli gloria, di essere dimora di Dio e di esercitare la disciplina, tutto questo deve avere come ultimo scopo quello di edificare ogni membro di Chiesa. Paolo lo mette in risalto in uno dei suoi scritti più belli, ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. Cosa vi è di più bello di diventare un uomo perfetto secondo Dio? Dopo aver esaminato questi aspetti, ogni credente in Cristo che si comporta da cristiano è orgoglioso di appartenere alla Chiesa del Dio Trino. Gli increduli devono seriamente valutare la loro ostilità nei confronti della Chiesa di Cristo, perché essa è un regno che non tramonterà mai, e mai significa in nessuna occasione e in nessun momento. Marzo 2007. Ellero.